vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 maggio il sole in regione è sorto alle 5:23 e tramonterà alle 20:47. Domenica c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. L'olivicoltura cresce in Friuli Venezia Giulia, è complice anche il cambiamento climatico, temperature più alte, lunghe fasi siccitose, è destinata a conquistare nuovi spazi, una dinamica che l'ERSA segue con attenzione. Dalle pozioni antiche alla cucina con Angelo Floramo, la storia delle erbe spontanee. Nella rubrica delle normative, le giacenze in aumento del vino causa l'erosione del potere di acquisto e l'aumento dei costi di produzione, mentre per la frutticoltura la ricchezza genetica delle varietà di noci friulane. Nello spazio del sommelier, il refosco dal peduncolo rosso in quello dedicato ai fiori e alle piante, il ruolo benefico di funghi e batteri. In conclusione di puntata, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo e proverbio friulano della settimana. Oggi ultimo giorno a Oleis di Manzano per Olio e Dintorni, che è una delle manifestazioni più importanti insieme a Olio Capitale a Trieste, che raccontano la produzione di olio di oliva in Friuli Venezia Giulia. Siamo con Marco Stocco dell'ERSA, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale. Marco Stocco si occupa di servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, e gli chiediamo intanto di raccontare in pochi dati i numeri dell'olivicoltura in regione. In regione abbiamo circa 600 ettari di olivi. Metà di questi sono di aziende agricole professionali, l'altra metà appartiene a hobbisti per autoconsumo. È una coltura che è in attiva crescita negli ultimi anni. Si parla circa di 30-50 ettari che vengono piantati annualmente, specialmente nei terreni marginali e in cui non c'è la risorsa idrica. E parliamo allora di produzione. Quanta nel 2022? Che cosa ci si aspetta per quest'anno? Allora, il 2022 è stata un'annata particolarmente produttiva, c'è stata una buona legagione, ci sono stati pochi attacchi parassitari sia da cimice asiatica sia da mosca dell'olivo, pertanto è stata nel 2022 una produzione molto soddisfacente. Nel 2023, essendo l'olivo una pianta che normalmente alterna la produzione, ci aspettiamo una produzione minore. Tuttavia, guardando gli olivetti, si appresta a avere comunque una buona fioritura. Ha parlato degli attacchi dei parassiti. Qual è la situazione nella lotta a queste minacce per l'olivo? Per quanto riguarda la cimice asiatica, questo insetto di recente introduzione nel nostro territorio ha portato nei primi anni dei gravi danni, con l'azzeramento totale della produzione non solo olivicola ma anche delle altre frutticole. Tuttavia l'ERSA, con l'introduzione dei parassitoidi specifici, negli ultimi anni si vede un graduale trend di calo. Tuttavia ci sono degli andamenti fisiologici tra parassitoide e cimice che portano ogni tanto ad avere delle recrudescenze di questo insetto. Per quanto riguarda invece la mosca, questo tipo di insetto dipende tutto dalla temperatura estiva, pertanto se come lo scorso anno la temperatura è stata molto elevata, la quantità di mosca era estremamente bassa. Il cambiamento climatico a questo punto sembra essere un bene per la coltivazione dell'olivo in regione, che peraltro è antica, non è certo cosa di ieri. Certamente l'olivo è una pianta che si è evoluta ai margini di aree semidesertiche, pertanto l'aumento delle temperature e la scarsità di precipitazione può favorire appunto una coltivazione più strutturata all'interno del nostro territorio. Se si parla che tra qui a 100 anni avremo un clima simile a quello della Puglia, pertanto le nostre aree si presteranno molto bene a questa coltivazione e non vogliamo trovarci impreparati a riguardo, pertanto ERSA segue molto attentamente l'olivicoltura sulla regione. Qual è la caratteristica che rende unico il Friuli Venezia Giulia nell'ambito della coltivazione dell'olivo? C'è un incontro di biodiversità tra le specie dell'Istria e della Dalmazia che arrivano più o meno sulla linea del Tagliamento, e quelle del Garda e del Centro Italia che arrivano nel Pordenonese. Quindi c'è un incontro di biodiversità sul nostro territorio. Il Bianchera, che è il cultivar del territorio, è però un gusto piuttosto difficile in un certo senso. E la caratteristica di questa varietà è proprio la grande quantità di polifenoli all'interno, no? Quindi conferisce un gusto molto amaro e piccante. Però c'è da dire che un oliveto deve avere all'interno almeno 5 varietà per essere adeguatamente impollinato. Quindi la scelta di impianto fa sì poi che possiamo ottenere degli oli differenziati, più oli delicati da pesce, più intensi da carne. Quale parte del consumo regionale di olio di oliva è coperta, o la produzione regionale potrebbe coprire? Praticamente tutta la produzione viene assorbita all'interno del territorio regionale. Erbe spontanee tra tradizione, magia e cucina. Angelo Floramo ci racconta cosa è rimasto fino a noi. Le fonti, le cronache antiche, perfino i registri del Tribunale della Santa Inquisizione conservati nell'archivio capitolare di Udine raccontano di donne che, tra rugiade e pleniluni, peregrinavano le campagne friulane alla ricerca di certe erbe che avrebbero poi utilizzato durante i loro misteriosi rituali. Filtri d'amore e di morte, cataplasmi curativi, tisane e decotti per fare bei sogni o intuire, nel sopore del dormiveglia, il volto dell'amato. Le brode avrebbero favorito la fertilità del grembo femminile o la vigoria del maschio e dei suoi lombi. Gli ultimi documenti che interrogano queste pratiche, definite dai confessori talvolta come non lodevoli, altre addirittura come demoniache, risalgono al 700, quando ormai già cominciavano a sferragliare gli ingranaggi della prima rivoluzione industriale. Di tanta misteriosa alchimia, oggi, per nostra fortuna, ancora qualcosa ci resta. Solamente che i fluidi delle radici, degli steli, delle foglie e dei fiori sono felicemente transitati dalle ampolle e dai calderoni, ribollenti rane e serpenti nell'immaginario collettivo, ai vani meno inquieti delle cucine e dei loro fornelli. Non è infrequente, in questi giorni che lenti declinano verso la fine del mese, scorgere sapienti raccoglitori ed esperte raccoglitrici che, memori della sapienza, della tradizione e dei consigli ereditati dagli anziani, scendono a loro rischio e pericolo nei fossati dei campi o penetrano nella boscaglia al margine delle strade, riempiendo le sporte di quelle erbe spontanee che più tardi sapranno trasformare in gustose delizie da imbandire su di un tavolo fiorito, destinate ad impreziosire il gusto di una frittata, il sapore di un risotto, l'abboccato di un rotolo salato. Sarebbe troppo facile provare a raccontare la delicatezza dello sclopit o tutte le sensazioni che promette e poi mantiene il tarassaco o il radicchio di montagna, anche perché i maestri della pratica culinaria ne hanno già cantato tutte le possibili lodi. Il consiglio è quello di accostare sapore a sapore, profumo a profumo. Una ricotta fresca, fatta baciare dall'erba cipollina, ad esempio, o i fiori del sambuco pastellati e serviti in un'insalatuzza di melissa e di timo. L'erba Luisa no, con quella si fa la grappa, che, come ricordava Pietro Andrea Mattioli, medico in Gorizia, nel secolo XVI, preserva la vita di coloro che hanno l'abitudine di berla, togliendo dai corpi loro ogni putredine, e custodisce, e ripara, nutrisce, difende e prolunga la vita. Negli ultimi mesi il mercato del vino sembra un po' in affanno. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Ogni mese il Ministero dell'Agricoltura pubblica sul suo portale istituzionale un bollettino denominato Cantina Italia, che riporta i dati aggregati delle giacenze di vino desunti dai registri informatizzati che tutti i produttori sono obbligati a tenere. Bene, il dato dell'aprile del 2023, confrontato con quello dello stesso mese l'anno scorso, evidenzia un incremento delle giacenze a livello nazionale del 5,3%, che corrisponde più o meno alla percentuale di riduzione delle vendite registrate nella grande distribuzione. In pratica, nelle cantine italiane oggi ci sono oltre 56 milioni di ettolitri, che corrispondono grosso modo a un'intera vendemmia. Poco più della metà del prodotto sarebbe allocato nelle regioni del nord, Friuli, Venezia, Giulia compreso. I nostri produttori cosa dicono? Un po' di preoccupazione comprensibile. L'inflazione ha eroso il potere di acquisto delle famiglie e questo si ripercuote negativamente sui consumi dei beni voluttuari. Come tutti sappiamo, dall'inizio del 2022 i costi di produzione continuano a crescere, energia, vetro, acciaio, antiparassitari, fertilizzanti, mentre i prezzi alla cantina sono fermi. Attenzione che questa dinamica non riguarda solo l'Italia. In Francia, per esempio, è stato finanziato con 57 milioni di euro un programma di estirpazione di 9.500 ettari di vigneti nella zona del Bordeaux, ufficialmente per motivi fitosanitari di contrasto alla flavescenza dorata, ma è un dato di fatto che la crisi dei prezzi si sente nelle cantine di tutto il continente. Alcune regioni del sud Italia hanno ipotizzato il ricorso alla distillazione di crisi. Sì, ma a molti sembra una misura eccessiva. Se ricordate, è stata attivata durante la pandemia Covid-19 e in Friuli Venezia Giulia non ha funzionato, non solo perché pagava troppo poco, ma anche perché qui abbiamo ottime distillerie per fare grappa, ma non ci sono impianti industriali capaci di andare oltre i 92 gradi volume come vorrebbe la norma. Ci sarebbe la misura dello stoccaggio volontario, ma in passato le complicazioni amministrative e i ritardi dei pagamenti hanno creato più problemi che sollievo. Più logico è pensare alla vendemmia verde, cioè un aiuto all'abbattimento della produzione attraverso l'eliminazione dei grappoli prima dell'invaiatura. Molte regioni l'adottano sistematicamente, mentre nella nostra non è mai stata sperimentata, tanto che non abbiamo nemmeno un regolamento attuativo regionale. Dubito che ci siano i tempi tecnici per adottarne uno e, anche se si riuscisse, bisognerebbe poi reperire risorse sottraendole a misure di investimento in cantina o per la ristrutturazione dei vigneti. Non credo che i nostri produttori approverebbero. Con Raffaele Testolina alla scoperta delle varietà di noci spontanei della regione raccolti in un impianto dall'ERSA. Qualche anno fa, a Vita nei Campi, abbiamo presentato un progetto di raccolta e valutazione del noce spontaneo in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo chiesto la collaborazione agli amici che seguono la trasmissione. Una trentina di persone ci hanno contattato fornendoci informazioni su vecchie piante di noce sparse per la regione, da Muggia a Clout, dalle valli del Natisone alla Carnia. Abbiamo censito oltre 200 piante di noce spontanee non acquistate presso i vivai, alcune di 100 e più anni. Le abbiamo studiate, abbiamo valutato le caratteristiche organolettiche dei frutti e selezionato una trentina di queste con caratteristiche di pregio e le abbiamo affidate all'ERSA per una valutazione più approfondita. Michele Fabbro, tecnico dell'ERSA, che ha preso in carico con passione il progetto, ha realizzato un impianto sperimentale nell'ex azienda Pantianico dell'ERSA. L'impianto va per il terzo anno. Nel frattempo, il dottor Fabbro sta preparando con la collaborazione di Luca Poggetti di Paularo le piante madri per la moltiplicazione di piante in estate da distribuire in regione agli appassionati frutticoltori. Abbiamo concordato con i colleghi dell'ERSA di moltiplicare tra le 10 e le 30 accessioni per mantenere ampia la diversità genetica, visto che l'indagine ci ha fatto vedere che il Friuli è una zona di incontro di due aree rifugio, l'Italia meridionale e la penisola dalmata, durante l'ultima glaciazione ed è ricca di preziosa diversità genetica. Tra qualche anno il progetto darà i frutti per i quali è stato pensato. Mettere a disposizione dei tanti che amano coltivare piante da frutto autoctone in regione varietà di noce friulano selezionate. La speranza è che le noci friulane diventino la materia prima per tanti prodotti tipici, dalle gubane ai chalsons agli strucchi. Ne riparleremo sicuramente tra qualche anno in questa trasmissione. La scorsa puntata Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier ci aveva fatto assaggiare radiofonicamente la ribolla gialla. Oggi è la volta del refosco dal peduncolo rosso. Tra i vitigni a bacca rossa del patrimonio autoctono regionale una posizione di prestigio ce l'ha il refosco dal peduncolo rosso. Si tratta di un'ottima espressione di una vasta famiglia, genericamente conosciuta come refoschi. Diffuso in tutte le zone del Friuli Venezia Giulia, trova un'ottima espressione caratteriale quando è coltivato nella zona di Aquileia. Deve il suo nome ai toni violacei del pedicello, il tratto verde che collega l'acino al raspo. In questo caso è rosso. La buccia è spessa, che in viticoltura è anche sinonimo di buono stato di salute, essendo più resistente agli attacchi delle malattie fungine. A maturazione avvenuta, l'acino si veste di un bel colore blu-nero. In Friuli sono molte le versioni del vino refosco, anche abbastanza diverse, al punto di rendere riconoscibili tra loro, ad esempio, il refosco di Faedis da quello di Scodavacca. Purtroppo in Italia i vini non si distinguono con il nome della località dove vengono prodotti, essendo individuati con l'indicazione della sola varietà. Quindi, stesso nome per vini con qualità e caratteri diversi rendono difficile individuare l'origine precisa del prodotto. L'epoca di maturazione è medio tardiva, perché quest'uva ha bisogno di calore e sole per portarla a compimento. Il vino che se ne ricava, su circa 700 ettari totali, è il rosso autoctono a bacca rossa più prodotto in Friuli Venezia Giulia. Il refosco ha una storia antica, che tuttavia non è possibile confermare con certezza. Le prime tracce di questo vino ci riportano al 1390 grazie agli annali del Friuli scritti dal conte Francesco di Manzano, che parlano di vino refosco e di vino terrano. Non è dato sapere se ci si riferisse all'attuale varietà, perché allora non si identificavano i vitigni e con terrano si indicavano genericamente i vini del posto per distinguerli da quelli cosiddetti vini navigati. Ora sappiamo con certezza che il refosco del Carso, che chiamiamo terrano, anche in etichetta, alla vista ricorda il refosco dal peduncolo rosso, ma non condivide lo stesso patrimonio genetico. Alessandro Squizzato, oggi per la rubrica dei fiori, ci dice di come ci possono aiutare nella cura domestica delle piante i microorganismi amici. Alcune puntate fa abbiamo trattato alcuni prodotti di origine naturale utili nella cura delle nostre piante. Oggi continueremo a parlare di difesa delle piante, anche in questo caso in modo del tutto naturale. Funghi e batteri amici. Quando parliamo di funghi e batteri pensiamo sempre a qualcosa di negativo, ma da diversi anni in agricoltura professionale vengono utilizzati microrganismi specifici, utili a trattare le diverse avversità che possono danneggiare le coltivazioni. Alcuni funghi amici di questo tipo sono in grado di causare danni a diversi tipi di insetti agendo come parassita. Quando le spore del fungo entrano in contatto con un insetto suscettibile, si introducono nel corpo e si sviluppano, uccidendolo ed utilizzandolo come fonte di nutrimento. Dopo la morte, il micelio, il fungo, si sviluppa sull'ospite morto, producendo nuove spore. L'insetto parassitizzato, ma non ancora morto, diffonde il fungo ad altri esemplari durante i suoi spostamenti. Il fungo non infetta l'uomo né gli altri mammiferi ed è pertanto considerato un insetticida naturale contro gli insetti infestanti. I batteri amici, alcuni tipi di Bacillus, per fare un esempio, solitamente si trovano in natura nella microflora del terreno, altri nella porzione di suolo che circonda le radici delle piante. Agiscono contro diverse malattie fungine, soprattutto contro botrite, ticchiolatura del melo, malattie radicali e alcune batteriosi. I loro meccanismi d'azione prevedono diverse modalità. La competizione per spazio nelle radici, andandole a circondare e quindi impedendo la malattia di assestarsi alla pianta, la competizione per nutrienti nei confronti dei patogeni e la produzione di sostanze fungicide. I formulati commerciali a base di questi batteri vanno distribuiti preventivamente sulla vegetazione e quando espressamente indicato sulla confezione commerciale può essere distribuito sul suolo per arrivare a colonizzare le radici della pianta da proteggere. Alcuni studi hanno evidenziato che l'utilizzo di questi microrganismi aiuta le piante ad essere più resistenti e pronte agli attacchi di insetti e malattie. Questo perché sono in grado di attivare preventivamente tutte quelle strategie di difesa in caso di un attacco patogeno. Avremo così una pianta più pronta a difendersi contro le avversità fitopatogene. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 23,20 e 23,50 euro al quintale IVA esclusa. E la soia tra 43,30 e 43,80. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 12,70 euro il quintale e la soia di 22,70. Buona l'attività all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stazionari. La lattuga Trocadero e l'insalata Gentile vengono quotate tra 1,40 e 1,50 euro il chilo IVA esclusa. Le zucchine tra 1,50 e 1,80. I finocchi tra 1,60 e 1,80. Le melanzane tonde tra 1,30 e 1,40. I cavoli tra 1,90 e 2 euro. I pomodori in grappolo tra 1,80 e 2 euro. La scarola riccia tra 2,60 e 2,80. Le ciliegie da 4 a 7 euro. I meloni tra 1,30 e 1,80. E l'uva italiana tra 4 e 5 euro il chilo. Nel settore della pesca le condizioni meteo sono favorevoli, però i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Brano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 20 a 34 euro il chilo, IVA esclusa. Le orate da 10 a 24, le sogliole da 7 a 25, le canocce da 5 a 14, le cappesante e canestrelli da 16 a 20, le seppie da 6 a 10 e le trote, che sono poche, vengono quotate tra 12 e 13 euro al chilo. Infine, scambi diversificati con prezzi in calo nel settore degli avicunicoli. Le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 22 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Il mese di maggio, che va a chiudersi, è stato caratterizzato da molta variabilità. Nella seconda decade, infatti, ha fatto piuttosto freddo, con temperature mediamente 2 gradi sotto la norma. La terza decade, invece, ha visto un aumento termico molto consistente, fino a 4 gradi oltre la norma. Un cambio di passo davvero notevole, dovuto al costante flusso di correnti orientali miti nei bassi strati. In quota, invece, la situazione è favorevole a una certa instabilità atmosferica, che si manifesta dapprima sulla zona montana e poi anche su altre zone della regione. Domani, quindi, avremo ancora una mattinata con prevalenza di sole, e poi nel pomeriggio annuvolamenti e qualche rovescio temporale, inizialmente sulla zona montana. Poi in spostamento, grazie alle correnti nord-orientali, verso alcune zone della pianura. Soffierà ancora buona moderata sulla costa e le temperature saranno decisamente miti, sempre sopra la norma, con massimi a toccare localmente anche i 30 gradi in pianura. Tra martedì e giovedì il tempo sembrerebbe un po' più stabile e soleggiato, con qualche modesta insidia pomeridiana sempre sui monti, in particolare verso il confine col Cadore. La bora soffierà con continuità, mercoledì anche sostenuta sulla zona di Trieste, ma con un lieve calo delle temperature. Verso il prossimo fine settimana, l'area depressionaria mediterranea potrebbe ricevere un po' di alimentazione all'opera di una saccatura atlantica, determinando, specie sabato e domenica, qualche occasione in più di precipitazioni e un moderato calo delle temperature. Per aggiornamenti vi invitiamo, come sempre, a seguire i nostri bollettini sul web e sulla RAI regionale. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. San Marcellin, bon palag e bon palvin, ovvero il giorno di San Marcellino, il 2 giugno, è buono per l'acqua, qui si intende la pioggia, e per il vino, la vigna. Coordinamento tecnico di Daniel Apostu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.